Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Questa mattina, come ho già annunciato poco fa al giornale radio, vorrei che mi raccontaste la vostra percezione delle forze armate. Sono 155 anni che esiste l'esercito italiano, ieri è stata commemorata questa data con il presidente Mattarella. Oggi quanto mai è visibile nelle città italiane la presenza dei nostri militari, in tutte le metropolitane di Roma, in tutti i luoghi sensibili delle maggiori città italiane, ci sono soldati in mimetica con l'armamento da battaglia in mano. Quindi si vedono i soldati, non sono più chiusi dentro le caserme o soltanto nelle parate militari. Ci sono vari segnali sulla percezione che comunque esistano delle forze armate. Vuoi da una parte l'annosissima e intricata questione dei due Marò, la sentenza dell'AIA conferma l'obbligo dell'Italia di restituire il sergente Girone all'India, allo stesso tempo decide comunque che l'India ha la giurisdizione su di lui, una vicenda ormai complicatissima. Comunque al centro ha due rappresentanti delle forze armate, i due Marò, cartelli, opinioni che si confrontano, parte dell'Italia che è solidale improvvisamente scopre questa sorta di solidarietà, di passione per le forze armate, per i due soldati italiani, per alcuni giustamente, per alcuni totalmente ingiustamente, detenuti in India, poi uno detenuto in India formalmente, in realtà è in Italia. Poi altre notizie, l'inchiesta tirata fuori dall'Espresso di ieri, che è stato grande scalpore per tutti gli appassionati dello spreco pubblico. Lo spreco pubblico è diventato un grande argomento da talk show. Tutte le domeniche i più improbabili difensori della povera gente, che sono i conduttori degli show pop della domenica, non fanno altro che chiamare alla sbarra amministratori, personaggi pubblici, per fargli conto della spesa, spicciolo per spicciolo. In questo conto della spesa c'è anche l'inchiesta dell'Espresso che scopre improvvisamente che per una legge del 1961 i cappellani militari, che è una figura che non conosce se non chi ha fatto il militare, sono quei preti da caserma che stanno in caserma, che si mettono una volta l'anno le mostrine sulla tonaca, perché normalmente molti portano la tonaca, sono preti legati comunque a una tradizione talare abbastanza, non farebbero i cappellani militari, sono ufficiali a tutti gli effetti, equiparati agli ufficiali, sono tenenti colonnelli, quindi a tutti gli effetti percepiscono lo stipendio di un ufficiale, quindi tredicesima, benefit, pensione. Venuto a vedere che si costano 20 milioni di euro all'anno i cappellani militari, e normalmente dice con tutti i bisogni che ci sono che dobbiamo pagare i cappellani militari, fateli soldati semplici, se la loro è una missione pastorale lo possono fare anche da soldato semplice senza bisogno che abbiano lo stipendio da ufficiale. Tutto questo cosa dà? Dà un quadro abbastanza eterogeneo e confuso. Aggiungiamo il fatto che ormai nessuno più in Italia fa la leva obbligatoria da vari anni, che comunque era una maniera per osservare, capire, vedere, anche se era molto parziale, la visione che si aveva delle forze armate, facendo una naia obbligatoria, molte volte tutti facevano per evitare, o chi la faceva comunque la vedeva come una sorta di periodo di purga di un anno in cui si facevano le guardie alle caserme, che esistevano perché esistessero soldati che facessero le guardie, facevano le guardie al Quirinale, facevano le guardie nei vari posti all'altare della Patria, quello che erano più alti facevano i corazzieri, e gli altri, dice, ho passato un anno a pulire i pavimenti, a dare lo straccio, a fare il presentatarmi, non è servito a niente. Oggi abbiamo un esercito professionale specializzato. Ecco, voi che percezione avete di questa realtà? 800240024, rispondetemi tra poco. Melog. Cronache meridiane. Ripropongo la domanda che ho fatto un istante fa. Qual è la vostra percezione delle forze armate, dell'esercito, della presenza dei militari comunque che fanno parte del nostro paese? Subito i primi due sms sono le due reazioni, ve le do subito a caldo. Uno che ha fatto il militare ai tempi della naia obbligatoria, naturalmente ha una sua visione limitata di corvée cucina di marescialli, di guardie, di presentatarme, di pulizia di caserme. Non era quella comunque, quello era l'aspetto forse della vulgata folcloristica di quello che fosse la vita militare. Poi una donna dice che a suo tempo avesse avuto l'età giusta e fosse vissuta nel periodo giusto, avrebbe fatto volentieri il militare. Se oggi lei avesse gli strumenti anagrafici per farlo, lo farebbe. Una donna che ha sempre desiderato di fare il militare. Due prime reazioni. 800240024. Entriamo nel vivo comunque della discussione. Gianandrea Gagliani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori. Ricordo che Gagliani è un giornalista, dirige il mensile web analisidifesa.it, si occupa appunto di analisi storico-strategiche, studio sui conflitti internazionali e anche collaboratore del Sole 24 Ore. Prendo subito con te la parte, diciamo, più viva legata alla cronaca, ma anche più problematica della percezione generale delle forze armate. Riguardo all'intervento, non intervento, possibile intervento, negato, smentito, sottinteso degli italiani in Libia, tu come la vedi? Ma io vedo che la vedo così, che in Libia bisogna fare a pezzi lo Stato islamico. Nessuno in Libia sembra volerlo fare. Adesso le milizie di Tobruk che sembravano marciare su Sirte, in realtà continuano a combattere contro quelle di Misurata. Insomma, io credo che avremmo dovuto già da tempo cancellare lo Stato islamico da Sirte e dalla Libia, perché è una minaccia diretta agli interessi italiani, all'Italia, a due passi da casa nostra. Però credo al tempo stesso che abbia fatto bene il nostro governo a non farsi coinvolgere in quella missione in cui ci volevano buttare gli americani, perché la guerra all'ISIS che vuol fare l'America è una guerra ridicola, è la guerra dei bombardamenti di precisione, dei bombardamenti sporadici, è una guerra blanda. Che però non è mai servita a nulla negli esempi degli ultimi anni. Bravo, è proprio così. Guarda, in Iraq e in Siria è un anno e mezzo che la coalizione là e ha combinato molto meno di quello che hanno fatto i russi in soli 6 mesi e nella sola Siria, facendo una guerra vera. Insomma, io credo che dovremmo intervenire per i nostri interessi nazionali contro lo Stato islamico, ma al tempo stesso non possiamo intervenire all'americana, perché questo vorrebbe dire solo invischiarci in una guerra infinita e soprattutto vorrebbe dire esporre l'Italia ad attentati terroristici, come sono stati colpiti tutti i paesi che hanno colpito direttamente l'ISIS. L'Italia finora non lo ha fatto, partecipando senza azioni belliche anche allo sforzo della coalizione in Iraq, e senza avere la contropartita di cancellare l'ISIS dalla Libia. Quindi, insomma, in questo contesto in cui i nostri alleati sono poco nostri amici, forse è meglio temporeggiare. Ecco, bello temporeggiare, ma facciamo uno scenario di ipotesi. Ammesso che potessimo essere chiamati a fare il tipo di guerra che tu dici efficace, cioè quello che hanno fatto in altri territori russi, saremmo in grado di farlo, avremmo diciamo la capacità e la strumentazione sia umana che di mezzi poter partecipare a quel tipo di guerra, perché è una guerra a questo punto non dico corpo a corpo, ma è il cosiddetto combattimento reale. Una guerra a media intensità, considerato l'andazzo dei bilanci della difesa degli ultimi anni, dove bisogna parlarsi chiaro. Negli ultimi anni e anche quest'anno il 75% dei fondi stanziati per la difesa se ne vanno in stipendi. E una buona parte di quello che rimane se ne va nell'acquisire nuovi equipaggiamenti, insomma, anche con leggi speciali, anche con finanziamenti extra bilancio, e per l'addestramento, le manutenzioni, il carburante restano pochissimi soldi, e questo significa che da anni molti reggimenti non fanno addestramento a fuoco, non fanno addestramento notturno. Quindi se dovessimo fare una guerra, diciamo, su vasta scala, ad alta intensità, avremmo molti mezzi non operativi e molti reparti non combat ready, come si dice, non pronti al combattimento. Solo una tua battuta, una tua valutazione sull'inchiesta dell'Espresso, che darà argomento di trattazione per tutte le buone domeniche, le gilettate possibili e immaginabili. 20 milioni di euro all'anno sulla retribuzione dei cappellani ti sembra una cosa che è giustificata o anche le solite cifre sparate? Ci sono delle delle norme che regolano la presenza dei cappellani, proviamo a decidere che i cappellani da domani vanno tutti degradati, o che addirittura in un esercito di una repubblica che vorrebbe essere laica non ci servono neppure. Insomma, bisogna prendere delle decisioni politiche in seguito alle quali ci saranno delle ricadute anche sul piano finanziario e delle norme, ma finché esistono queste norme, ed esistono da tanto tempo, è inutile stare a fare dello scandalismo per questi 20 milioni. Pensiamo piuttosto a tutti i soldi che abbiamo buttato in missioni all'estero, che sono servite soltanto a fare gli interessi di qualche nostro alleato, e lì parliamo di centinaia di milioni o di miliardi, senza portare una reale ricaduta positiva sugli interessi nazionali, e sono serviti a garantire un minimo di capacità alle forze armate di sopravvivere, perché noi sappiamo oggi che gli unici reparti che riescono a fare addestramento, a essere veramente pronti all'impiego, sono quelli che vanno all'estero e che quindi ricevono dei fondi extra proprio dai fondi per le missioni, per fare il loro per potersi addestrare ed essere pronti all'azione. Quindi insomma, io credo che dovremmo cercare scandali e soldi sprecati, insomma io non guarderei tanto a questa piccola cosa, che effettivamente, se qualcuno decide che politicamente va deciso a livello governativo che è una cosa anacronistica, si fa una norma, la si approva in Parlamento e la si cancella. La vedo difficile, caro, non siamo riusciti a togliere le tasse agli alberghi camuffati da conventi, quindi la vedo un po' difficile che non si prenda. È difficile togliere lo so. Allora, presento intanto l'altro ospite, mentre già ci sono degli ascoltatori in ascolto che vogliono dire la loro, 800 24 00 24. Colonnello Angelo Passafiume, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti e buongiorno ai suoi radioascoltatori. Allora, un abbraccio particolare a Gianandrea. Ah, siete amici pure, vi conoscete. Ciao. Vabbè. Gianandrea, come stai? Vabbè, dopo vi salutate. Dopo, finita la mia... Ricordo che è presidente nazionale dell'ANI, Associazione degli Incursori dell'Esercito in Congedo, 9° Reggimento Incursori Paracadutisti, colonnello Moschin, unica forza speciale esercito italiano. Quindi lei poi ci darà conferma, visto che conosce di persona la realtà, di quello che abbiamo già in qualche maniera accennato con Gaiani. Però prima voglio dare la parola a due ascoltatori. Angelo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti gli ospiti e gli ascoltatori di Radio 24. Sì, buongiorno, dica Angelo. Io ho fatto il carabiniere ausiliario diversi anni fa, è stata un'esperienza molto interessante e molto formativa, sia per quello che riguarda l'ordine pubblico, sia per quello che riguarda il supporto all'arma territoriale. E credo che la polizia e i carabinieri, piuttosto che altre armi, abbiano ancora necessità, oggi come mai, di avere, diciamo, delle persone, delle forze fresche, dei giovani all'interno, che diano la possibilità di liberare delle forze che oggi magari sono molto molto molto esigue, non soltanto giovani, per dire 18-19 anni, ma anche persone che già all'epoca facevano, come io e come altri ragazzi, facevano già l'università, quindi persone che erano in ambito informatico, le lingue, che avevano già delle esperienze, ma che gli mancava un'esperienza di vita, qualcosa di più formativo di quello che, diciamo, era la classica naia a pulire, sì, i pavimenti. Io l'ho fatta la naia, onestamente, ecco. È stato divertente, la ricordo con nostalgia, ma dovessi dire che al di là che fare il cubo alla mia branda non è che abbia imparato molto. Lo immagino, anche perché sono passati degli anni, quindi con la nostalgia siamo tutti quanti leoni. Andava fatto, mi ricordo che la gente faceva carte false per non fare. Io però ho fatto carabiniere, quindi posso dire che per quello che riguarda l'esperienza, è stata un'esperienza che mi ha portato a viaggiare, a fare anche delle cose, come ad esempio i Vespri Siciliani, una cosa che posso dire, una cosa pubblica, piuttosto che altre operazioni sul territorio che ancora oggi mi sento magari... Le è andata meglio, io era l'anno che c'era stato il terremoto in Irpinia, mi hanno mandato a spalare le macerie. Assolutamente. Devo fare la scuola trasmissioni, in realtà quel periodo invece che andare a fare la scuola trasmissioni, quello bisognava fare. Mariella, buongiorno. Buongiorno, senta, io premesso sono una nonna, sono una donna, non l'ho mai fatta, eccetera. Però una donna o una nonna? Non ho capito, donna e nonna? Dico, sono una donna, sono una nonna, quindi ho superato. Donna l'avevamo capito, nonna poteva anche non dirlo, ci andava bene lo stesso. Sono fiera, orgogliosa, quindi pensando ai miei nipoti, io ritengo che la naia come è stata concepita in passato, no, assolutamente no. Ma non esiste, ritengo più quella. Ritengo che il militare comunque debba essere un mestiere come altri, quindi ha bisogno di specialisti, quindi con formazione più lunga, più specialistica, eccetera. Però un 6 mesi, che che non deve essere una naia di tipo militare, ma di militare civile, dove a uomini e donne indistintamente si dà una formazione per affrontare, visto che l'esercito, l'ha citato lei prima, è stato chiamato spessissimo e devo dire con ottimi risultati anche per affrontare emergenze nazionali tipo rischio sismico, terremoti, inondazioni, tutti i grossi problemi che affliggono il nostro territorio, ma anche con i nuovi problemi come l'immigrazione oppure il terrorismo. Quindi dare, diciamo, a tutta la popolazione, un po' come si fa in Israele, una formazione di base per poter affrontare l'emergenza. In Svizzera si fa qualcosa del genere, uno è soldato, perfetto, tutta la vita, si tiene fucile, diciamo, in casa. Che la cittadinanza sia preparata e pronta per poter affrontare l'emergenza. Ma cosa dovrebbe essere insegnato? Poi dopo diamo la voce ma ai nostri ospiti. Secondo anche me l'uso delle armi, naturalmente. Anche l'uso delle armi, che militare... perché saperle usare significa anche evitare problemi, nel senso che se uno è consapevole dei rischi e di come funziona un oggetto, dico, tante disgrazie che accadono per caso potrebbero essere evitate. Ma io penso soprattutto, lei pensi, io sono in una zona ad altamente, a rischio altamente sismico, lei pensi in caso di calamità, se ci fossero le persone già allenate anche all'organizzazione. Quindi mi faccio capire, lei la sua ipotesi sarebbe, perché non si fa una sorta di servizio che è una metà fra servizio civile e servizio militare? Addestramento tutti. All'imprevisto, in cui c'è l'uso delle armi, perfetto, la disciplina, con esperienze magari anche all'estero, finita la scuola, sanitarie, umanitarie, logistiche, via dicendo, per uomini e per donne, però uomini e donne. Scusi, vorrei ricordare che la NAIA era un ottimo elemento per fare anche uno screening sanitario sulla popolazione, tante malattie sono state diciamo debellate perché c'era questa visita medica di controllo, soprattutto quelle legate proprio alla genitalità maschile, no, ma anche proprio gli uomini non vanno mai dal dottore, l'unico dottore che guardava gli uomini nelle sue parti basse, era il medico militare che risolveva alcuni problemi che oggi uno se li porta. Secondo fino me sarebbe utile anche per avere, mi scusi, un po' più di educazione civica, un po' più di rispetto per le istituzioni, ma soprattutto per avere anche quel senso di, come si dice, che siamo una comunità e quindi in caso di bisogno sappiamo. Allora, fermiamoci Mariella, diamo la linea alle informazioni della borsa. Sulla domanda di Mariella porrò la domanda dopo sia al colonnello Angelo Passafiume del Col Moschin e a Gianandrea Gagliani. L'ipotesi di ricominciare a abbattere questa sorta di tabù generale che c'era, che considerava tutto ciò che riguardava la vita militare come qualcosa di fortemente reazionario, quindi parlare di militare significa già fare una scelta di campo. Oggi evidentemente non è più così, ma si forma anche l'idea che forse, anche se non vogliamo crederlo, in guerra in qualche maniera ci siamo. 800 24 00 24, a tra poco. Banca Mediolanum, costruite intorno a te, vi presenta Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, sta cominciando a crearsi una sorta di filo conduttore rispetto alla mia domanda. L'ultima ascoltatrice ci ha fatto una proposta: secondo lei bisognerebbe ripristinare qualcosa che assomigliava al vecchio servizio militare e al vecchio servizio civile, ridare una istruzione generale a tutti che abbia a che fare comunque con informazioni che riguardano anche l'uso delle armi, l'attitudine comunque alla conoscenza delle cose militari, ma anche la conoscenza del territorio, del reagire in caso di calamità, tutte le cose che fanno e hanno anche fatto i soldati. Franco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, piacere di sentirla. Io di mestiere faccio il medico militare, mi occupo di emergenze e sono cresciuto, tutta la mia vita è stata dedicata a questo. Lei è un militare a tutti gli effetti, in quanto me. Militare in servizio continuativo, tuttora nel corpo militare della Croce Rossa Italiana. E noi ci occupiamo di emergenze a livello nazionale, internazionale, di qualunque tipo. Noi eravamo quelli che nella guerra mondiale si occupavano della difesa civile nei rifugi antiatomici per la popolazione, antibellici, antibombe della popolazione civile. E noi tuttora ci occupiamo, finché rimarremo in esistenza, cosa che adesso è un po' in dubbio. Rimarremo in esistenza, serviranno sempre dei medici militari, penso. Sì, in teoria sì, il corpo militare della Croce Rossa sta vivendo un brutto periodo, ma insomma diciamo che tuttora noi siamo operativi e ci occupiamo proprio, abbiamo proprio la funzione di intervenire nelle grandi emergenze nazionali, internazionali, teatri operativi. Affianchiamo le forze armate italiane in tutte le operazioni all'estero, quindi è il nostro mestiere. Io in particolare mi occupo di insegnamento a forze dell'ordine e anche concorsi a militari specializzati proprio per fronteggiare le grandi situazioni. Ecco, ma lei cosa dice della proposta dell'ascoltatrice di allargare questa sorta di formazione, che fa parte anche di una formazione militare, a tutta la popolazione, come una volta c'era il servizio obbligatorio? Certo. Le persone devono essere addestrate anche a questo, per il suo settore, anche a sapere comunque occuparsi di feriti, di persone in casi di calamità, via dicendo. Oggi si fa soltanto nelle aziende, quando c'è per necessità di legge, creare il presidio che si occupi comunque della sicurezza, allora si fanno i corsi nelle aziende, perché allora non estenderli sempre. Infatti la legge 81 fa fare questi corsi, che poi vengono presi molto così, molto relativi, concorsi di primo soccorso. Io condivido pienamente quello che ha detto l'ascoltatrice. Io conosco diversi sistemi nel mondo, ha nominato Israele, io ho fatto anche dei corsi in Israele, quindi so bene come in Israele la popolazione è sensibilizzata e educata all'utilizzo di sistemi di difesa, anche di soccorso, anche di primo soccorso. E questo per, diciamo, che vive una situazione negli ultimi decenni un po' diversa da quella, certo, che viviamo noi in Italia. Certo, per necessità, però ci sono altri paesi come la Svizzera, per esempio, dove non c'è mai stata una necessità di guerra, anzi uno dei pochi paesi al mondo assolutamente. Però c'hanno sempre l'arma, c'hanno sempre l'arma e sono sempre richiamabili. Richiamabili in ogni casa, fabbricato, abitazione, esiste il rifugio, che inizialmente è stato costruito antiatomico, ma può servire per qualunque tipo di necessità. Quindi c'è già una mentalità più propensa anche al dedicarsi civilmente agli altri. Siamo realistici, viviamo in un paese in cui le scuole cascano in testa ai ragazzini, quindi ancora, diciamo, sono modelli belli, ideali un po' lontani. Allora, colonnello Angelo Passafiume, l'ho tenuto in ascolto fino adesso, adesso mi serve però lei come interlocutore. Ricordo, presidente nazionale ANIE, associazione incursori dell'esercito in congedo, del nono reggimento incursori paralotisti Colmo Skin, che è l'unica forza speciale esercito italiano. Dalla sua esperienza, in questo momento esatto, da una parte Gaiani ci racconta che ci possono coinvolgere comunque in operazioni belliche per le quali non sempre possiamo essere d'accordo o comunque addestrati per compierle. Le spese sulle forze armate in fondo si limitano, perlomeno sono in parte esaurite dal mantenimento del grande apparato, ma in realtà poco si fa per l'addestramento. Lei come la vede? Partiamo dall'idea della nostra ascoltatrice, l'idea di cambiare un po' le cose e cominciare a far partire, visto che ormai è sdoganata l'idea che possa esistere un esercito. Lei ricorderà che esistono momenti in cui soltanto parlare di militari significava alzare le ire della popolazione, perché adesso è un po' cambiata la situazione, anche perché siamo circondati da militari. Vediamo un suo commento, una sua integrazione a quello che è stato detto. Ecco, io però vorrei prima fare una premessa, cioè nella presentazione che lei ha fatto inizialmente del Colmo Skin, lo ha detto colonnello. Ma no, ho sbagliato, Colmo Skin, chiaramente. Sì, Colmo Skin è il colle del gruppo del Grappa. Sì, Colmo Skin, esatto. L'avevo scritto, diciamo, l'avevo scritto su due righe, quindi. Certo, Colmo Skin, chiaro. Giusto per mettere i punti su lei. Per quanto riguarda invece il resto, lì ritengo che Gian Andrea Gaiani sia molto più preparato e addentro di me su queste tematiche, dato che io provengo da, come ha già detto, dal nono reggimento d'assalto paralotisti Colmo Skin, che è l'unica forza speciale dell'esercito italiano, quindi diciamo sono più adatto a determinati commenti che interessano più questo tipo di attività. Però nel complesso posso dire, questo è il mio punto di vista, per quanto riguarda la possibilità di poter ampliare questo tipo di attività personale che non ha scelto la vita militare come carriera o come professione, potrebbe essere fattibile, però come ogni cosa chiaramente ha i suoi costi e quindi ha i suoi pro e i suoi contro. Questo va quindi già dice una situazione in cui dobbiamo usare la lesina. allargare i costi è difficile, poi andrebbe contro l'idea generale che alla fine siamo arrivati alla conclusione che serve un esercito specializzato piuttosto che una naja per tutti. Ma infatti l'evoluzione c'è stata, quindi mentre prima, per esempio, mi ricordo che quando facevamo le operazioni durante il periodo della naja, così della costrizione obbligatoria, uno dei nostri principali, di chi comandava, di chi aveva la responsabilità di questi uomini, il primo pensiero era quello di riportarlo alla mamma, sano e salvo, senza nessun problema. Ora chiaramente con l'avvento dell'esercizio di professione questo è venuto un po' meno, e quindi perché è una scelta volontaria, di oggi è spendibile, là in qualsiasi teatro viene richiesta la sua opera. Ecco, lei però, mi scusi, colonnello Passivo, oggi una persona che sceglie, decide di intraprendere una via professionale a tutti gli effetti come quella appunto della vita militare, fondamentalmente da cosa è motivata questa scelta? Si ha la percezione che oggi andare nell'esercito non significa necessariamente essere un guerrafondaio, un reazionario, perché questa idea... Questi sono i primi pacifisti, perché sarebbero i primi a correre il rischio. Non so di che generazione sia lei, ma è passata nel nostro paese questa idea? Lei si ricorda i militari col bavaglio che manifestavano per strada? Sembrava che forza armata equivaleva a una sorta di pericolo, non so, di restaurazione, di dittatura, via dicendo. Oggi l'idea è notevolmente mutata. L'evoluzione è stata tale che adesso il militare di professione è un professionista che viene addestrato in particolar modo, e in particolar modo le forze speciali, per poter affrontare una determinata operazione. Questa professionalità gli dà, diciamo, quel senso di pratico, di operare là dove viene richiesta la sua opera, molto semplice, come alla pari di un chirurgo, alla pari di un architetto, eccetera, eccetera. È evidente che questo tipo di attività prevede alla base un addestramento particolare che magari prima non veniva fatto. Adesso i tempi sono più lunghi, la preparazione è molto più approfondita, le armi molto più tecnologicamente avanzate, i sistemi di collegamento, eccetera. E poi, ripeto, oggi il militare è aiutato molto da quello che è la tecnologia sull'uso di determinate apparecchiature o mezzi. Quindi si avvia sempre di più a essere un personale con delle capacità tecniche piuttosto che un semplice combattente nell'idea più tradizionale. Vincenzo, buongiorno. Vincenzo, poi la sentiamo. Sì. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti quanti. Allora, volevo portare soltanto la mia esperienza. Io sono un ufficiale superiore in congedo. Provengo dalla riserva selezionata, anzi dagli ufficiali cosiddetti di complemento, poi dirottato nella riserva selezionata. Allora, quindi spieghi, perché non tutti possono. Significa che lei comunque potrebbe ritornare operativo in momento di necessità. Ecco. Certo, sono stato operativo nel 2004 in Iraq, quindi insomma ho fatto un po' di esperienza. Volevo dire semplicemente che ho visto ho vissuto sia il periodo della leva, poi giustamente riformato, perché insomma era una struttura elefantia che non potevamo più reggere. Poi ho visto la trasformazione in esercito professionale, andrebbe ottimizzato, per carità, tutto andrebbe ottimizzato. Però dal 2000 al 2010 io sono anche un insegnante, dal 2000 al 2010 ho fatto circa sei mesi a scuola e sei mesi in caserma. Devo dire che ho trovato un ambiente sinceramente stravolto rispetto all'esercito, diciamo, della leva. Con dei professionisti, io sono stato, ripeto, in Iraq, non col Kormoskin, con questi reparti almeno nell'immaginario collettivo operativi nel senso stretto del termine. Sono stato col genio e le devo assicurare che ho trovato personale altamente qualificato e altamente specializzato. Questa è la mia esperienza, sono contento di averla vissuta e lo auguro un po' a tutti quanti. Quindi quello che ci dice Vincenzo, diciamo, è un militare che un pezzo della sua vita lo lascia sempre dentro comunque la vita militare, perché si è reso disponibile comunque a continuare ad esserlo anche dopo il congedo. Dice che comunque al di là dei corpi d'élite come appunto il Kormoskin, c'è anche nelle altre specialità dell'esercito, come il genio, in cui lui ha militato la guerra in Iraq, c'è un alto livello di specializzazione. Poi fra un istante sentiamo Gagliani, che più se ne intende, che ci dà un quadro, una sua lettura di quello che è il nostro livello e quali sono le nostre eccellenze e anche i nostri limiti. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. .800240024 nella nostra riflessione sulla percezione generale delle forze armate. Hanno chiamato militari, ex militari, persone che considerano comunque un'esperienza formativa diversa e specializzata, l'attualità dell'esercito. Poi via SMS arrivano solamente i messaggi ostili comunque all'idea stessa che possa esistere un esercito delle forze armate. Ma vorrei coinvolgere a questo punto Gianandrea Gagliani, che ricordo che è un esperto di analisi della difesa, dirige un mensile web, analisidifesa.it. Ritorniamo all'ipotesi di prima, Gianandrea. Ammesso che noi dovremmo, o ci fosse l'eventualità di partecipare a questa famosa operazione in Libia, nelle caratteristiche che tu reputi più efficaci, chi dovrebbe partecipare, chi avrebbe gli strumenti tecnici per farlo e in che maniera potremmo, in che entità potremmo farlo? Beh, noi oggi abbiamo negli ultimi mesi addestrato reparti per questo tipo di operazione e sono ovviamente le forze speciali, le forze di Kolmoskin, ma anche le altre forze per operazioni speciali. E ci sono alcuni reparti dell'aeronautica, in particolare... Mi manda un SMS dove ci sono anche gli incursori della Marina. Ci sono gli incursori della Marina, certamente, che sono tra l'altro imbarcati sulle navi che incrociano davanti alla Libia, quelle dell'operazione Mare Sicuro. Abbiamo in ambito esercito brigate come Garibaldi e Folgore, quindi bersaglieri e paracadutisti che sono... hanno fatto preparativi, addestramenti. I bersaglieri forse andranno a presidiare la diga di Mosul in Iraq, la Folgore sembrava pronta a partire per questa missione in Libia di cui tanto si parla da tanto tempo ma che ancora non è partita. Insomma, i reparti ci sono. Ovviamente il vantaggio è economicamente che i reparti che vengono indicati per partecipare a operazioni ricevono quei fondi che il bilancio non garantisce a tutti per mantenere una prontezza operativa. Ma detto questo, io vorrei ricordare che i recenti sondaggi, per il peso che possono avere, dicono ormai da qualche anno che le forze armate nel loro complesso godono di una grande fiducia da parte dei cittadini. Si parla di percentuali intorno al 70-74%, la Marina ha superato addirittura i Carabinieri recentemente, 74,6%. Probabilmente l'effetto Marò in questo caso è funzionato, hanno fatto di ogni un po', assemblando un po' il generale, e la Marina forse per questo ha ripreso un po' la sua visibilità. No, ma la Marina, ma forse adesso io voglio dire, l'impiego delle forze armate che sono professionali e devono essere così, perché la leva oggi sarebbe uno spreco di denaro, nel senso che, apriamo questa parentesi, addestrare una persona per 6 mesi, 9 mesi, un anno di più, credo che non si possa pensare, no? L'esempio svizzero vale fino a un certo punto, un paese piccolo con altre particolarità sia territoriali. No, il caso svizzero è un caso di milizia, un esercito che è nato per difendere le sue valli e i suoi villaggi, quindi ogni paese ha dei militari che in caso di emergenza nazionale sono in grado di difendere la loro vallata, sanno già cosa devono fare. Ma prova a immaginarti se in Italia ci fosse un fucile d'assalto nell'armadio di ogni casa, cosa succederebbe? No, figuriamoci, non voglio pensarlo manco io. Ecco. Però le forze armate oggi godono di grande visibilità. Qualcuno mi dice già esiste la protezione civile e non è ordinata presso il Ministero della Difesa, non c'è bisogno di farne un'altra. Infatti adesso su questo arrivo rapidamente, dicevo, godono di grande popolarità perché sono percepite, tra l'altro perché le altre istituzioni, molte altre istituzioni hanno perso molto allure, no? Hanno perso molta considerazione presso l'opinione pubblica, quindi le forze armate risaltano perché comunque, che piaccia o non piaccia il tipo di operazione, in mezzo al mare a salvare immigrati clandestini ci vanno, c'è loro. La Marina, che nelle strade, quando andiamo in metropolitana a Roma, che sia utile oppure sia solo percezione di sicurezza, possiamo discuterne, ci sono i nostri militari, c'è una visibilità dei soldati, della loro utilità, c'è un terremoto, c'è addirittura quando c'è da portare via il pattume, ci sono le ruspe del genio. Io sono assolutamente contrario a questo tipo di impiego delle forze armate, però questo tipo di impiego dà una visibilità che poi porta consenso e popolarità, perché il cittadino le percepisce come utili, e anche in caso di calamità. Allora la proposta di... io so che alcuni paesi hanno fatto addestramento paramilitare già nelle scuole, pensiamo alla Jugoslavia, alla Libia, dei paesi socialisti, questo succedeva. Prova a immaginare cosa accadrebbe in Italia se facessimo addestramento paramilitare. Beh, già i no global, l'estrema sinistra, il mondo cattolico, scoprirebbero delle critiche spaventose. Insomma, io penso invece che il fatto di addestrare i cittadini a gestire emergenze che sono quelle di pubblica calamità di qualunque tipo, al di là dell'aspetto militare, sia una cosa che potrebbe fare la scuola. E lo dico da emiliano, io vivo nella zona che nel 2012 è stata colpita dal terremoto, no? Fra Bologna, Modena e Ferrara, e io qua ho visto veramente dei crolli psicologici più che oltre che ai crolli fisici degli edifici. E allora penso che se noi già nelle scuole superiori addestrassimo i nostri giovani e futuri adulti a gestire anche psicologicamente, ad affrontare, a dargli degli strumenti per affrontare situazioni di emergenza che non hanno nulla a che fare col conflitto, con la guerra, col mondo militare. Anche semplicemente fare una manovra per evitare i soffochi di una persona quando ha dei problemi. Che vuol dire pronto soccorso, che vuol dire sapere dove metterti in una casa quando scuote tutto perché c'è un terremoto, sapere come comportarsi in caso di incendio, sapere come aiutare persone in difficoltà, sapere come trasportare persone con un veicolo in una situazione d'emergenza, insomma quelle cose che anche i militari possono insegnarti a fare. Ci sono addirittura corsi per giornalisti che vanno in zone di guerra tenute da militari dove ti insegnano un sacco di cose, non ti insegnano a sparare, ti insegnano a gestire situazioni difficili. Quando devi lavorare in bed. Vorrei concludere col colonnello Angelo Passafiume. Se lei potesse fare una proposta, quale sarebbe un ulteriore passo di osmosi o di vicinanza fra le caserme che ci sono nelle città, sono chiuse, e i cittadini che stanno fuori? Se potesse lei proporlo e inventarselo. Colonnello Passafiume? Ah, parlava con me. Sì, sì, scusa, è certo. Ma guardi, le caserme già di per sé sono aperte, però vorrei ricollegarmi un attimo a quello che ho detto e che condivido pienamente del Gianandrea Gaiani, al fatto che qual è la motivazione che fa scegliere al cittadino o al giovane di arruolarsi. Uno, oggi con i tempi che corrono, chiaramente è quello dell'impiego. Una sicurezza professionale c'è, cioè, comunque. A consolidare una posizione mi sembra estremamente importante. Secondo, poi chiaramente c'è la motivazione del militare, cioè uno lo deve sentire dentro. Là dove invece io posso dire che c'è una motivazione molto più alta, cioè quando uno sceglie di andare in determinati corpi particolari, come può essere la Brigata Folgore, come può essere gli incursori del nuovo reggimento, gli incursori della Marina o dell'Aeronautica, eccetera. Lì chiaramente scatta un'altra molla che è completamente diversa da colui che cerca di andare o scegliere la vita militare, diciamo soltanto perché così ha un posto sicuro su cui... Anche perché non è una passeggiata, se si sceglie uno deve capire che va a fare un lavoro molto delicato, ma con una preparazione che richiede anche molto spirito di sacrificio, perché non è che si... tanto spirito di sacrificio, quindi oltre quindi mettere a repentaglio, a rischio, la propria incolumità quando si viene chiamati ad operare in determinati teatri operativi. La faccenda dell'apertura della caserma, o cioè il contatto, cioè l'inserimento del tessuto connettivo sociale del militare, ritengo che questo già sia un dato di fatto, cioè il militare vive, è elemento di ricchezza, anche valore aggiunto all'interno di una società, perché ha uno stipendio, spende, gira gli amici tra i civili o tra i militari, cioè vive nell'ambito societario. Quindi è già un contatto diretto che vi è tra l'esterno e l'interno. No, colonnello, la sigla dice che abbiamo finito. Per oggi, diciamo, abbiamo detto quello che potevamo dire. Non è detto che questo argomento ritorni all'attenzione dei nostri ascoltatori. Vedo che hanno numerosi intervenuti e detto la loro. Alla prossima.